Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Cuba ormai è una terra di frontiera, l'embargo non c'è più. Sì, però l'affare qual è? Stanno assegnando wifi in nuove zone fuori città. Se avessi bisogno di soldi. Quanto? 20.000. Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Non è un paese per giovani, film di Giovanni Veronesi al cinema da questo weekend apre col suo trailer la puntata odierna. Negli anni 80 se ne andavano i cervelli o i figli dei ricchi, oggi se ne va chiunque, sono più di 100.000 l'anno, la maggior parte dal nord. Sono dati clamorosi di cui nessuno parla perché non c'è soluzione. Nel nostro paese l'immigrazione ha un effetto mediatico molto forte, quest'altro esodo di gente che se ne va in silenzio ma inesorabilmente non fa notizia, anzi crea imbarazzo, ha dichiarato giustamente Veronesi. E oggi a farla da padrone sarà il tema dello studio all'estero fin da giovanissimi, con una storia che arriva, pensate, dalla Cina. Tornano anche le dritte di Eures per lavorare in Europa insieme alle vostre lettere che inviate settimanalmente a giovanitalenti@radio24.it. Mentre fa il giro di boa del primo mese l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che manderà 3 ascoltatori a Strasburgo. Tra poco la parola chiave per partecipare. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda. Sono molto preoccupato dai dati sulla disoccupazione giovanile, ma anche e soprattutto dal fatto che, anche se negli ultimi anni c'è stato un recupero di posti di lavoro, dobbiamo tenere sempre presente che veniamo da 7 anni che per noi sono stati una piccola guerra. Per Calenda dobbiamo insistere su innovazione e internazionalizzazione. In Italia intanto si spende per il welfare oltre il 54% della spesa statale, tra i livelli più alti in Europa. Lo si legge in una ricerca di Itinerari Previdenziali che sottolinea come per previdenza, assistenza e sanità si siano spesi nel 2015 oltre 447 miliardi, una cifra pari al 27% del PIL, uno dei livelli più elevati in Europa. Per il presidente del Centro Studi Alberto Brambilla si tratta di un onere difficilmente sostenibile in futuro, che già ora limita gli investimenti pubblici in tecnologia, ricerca e sviluppo, unica via per garantire la competitività di un paese e un futuro più favorevole per le giovani generazioni già aggravate da un abnorme debito pubblico. E chissà come appare il macigno del nostro debito visto da un giovanissimo studente italiano in Cina. Gli artisti ricevono tantissimi soldi e sono veramente considerati delle persone importanti, quindi la cultura è ancora molto forte. Gioele Leone, 16 anni, è uno studente delle scuole superiori impegnato in uno scambio studentesco in Estremo Oriente. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. Il laureato italiano che migra proviene sempre più spesso da università del nord e da facoltà scientifiche, si è diplomato in un liceo, ha ottenuto un voto di 110 lode e ha più probabilità della media di aver frequentato programmi di scambio internazionale. Lo rivela il Sole 24 Ore sulla base dello studio Graduate Migration Out of Italy, Predictors and Payoffs, pubblicato da 3 ricercatori italiani in Francia. Secondo lo stesso studio è difficile sostenere che il nostro paese esporti laureati di scarso valore dei quali non si sentirà la mancanza. Critico il nodo stipendi, l'Italia viene battuta da ogni stato e continente, compresa l'Europa dell'Est e i paesi in via di sviluppo. I nostri modelli statistici indicano che chi emigra all'estero svolge più spesso lavori qualificati e percepisce di avere migliori opportunità di carriera, spiegano i ricercatori. Per effetto della nuova emigrazione dei nostri connazionali, gli italiani registrati come residenti all'estero ammontano a 5 milioni e 200 mila secondo le anagrafi consolari. Oltre la metà dei connazionali espatriati negli ultimi anni sono laureati o diplomati, lo evidenzia il centro studi IDOS. In Italia il livello di competenze linguistiche è basso e lo skill mismatch, l'inadeguatezza delle competenze, risulta essere uno dei più elevati tra i paesi OCSE. Ciò ostacola l'aumento delle retribuzioni e l'incremento del benessere. Lo scrive l'OCSE nel rapporto economico, invitando il paese a migliorare il sistema di istruzione e le politiche occupazionali se si vogliono aumentare i salari reali insieme alla soddisfazione professionale e a livello di vita. E per chi avesse voglia di Cina, paese che vi racconteremo tra poco, 102 giovani talenti è il numero magico che il fondatore Jack Ma intende selezionare e formare per un anno nel quartiere generale di Alibaba ad Anzhou. Questo è l'obiettivo del progetto AGLA, programma che punta a formare giovani laureati per renderli futuri manager. Intanto prosegue anche oggi l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio e che da questa edizione vi chiede di raccontare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 3 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovrete avere tra i 18 e i 35 anni. E dovrete inviare da adesso fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve l'immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì prossimo e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 60, ripeto, Europa 60. Tre racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo il prossimo ottobre. Ancora vi ricordo l'email per partecipare, concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Estremo Oriente. Fino ad ora ci siamo occupati di Cina solamente per raccontare giovani professionisti italiani emigrati per lavoro. Vi siete mai chiesti invece cosa significhi nella pratica andarci a studiare? Nome: Gioele. Cognome: Leone. Età: 16 anni. Città di origine: Milano. Studi: Istituto Tecnico. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2016. Per andare dove? In Cina. Perché? Volevo cambiare la routine e esplorare una cultura nuova. Cosa studi attualmente? Lingua e cultura cinese. Dove? Zhejiang Foreign Language School. Cosa farai da grande e dove lo farai? Interprete o manager in commercio internazionale in Italia o forse estero. Sono 7 mesi che vivo lontano da casa, dalla mia famiglia, da tutto quello che ero abituato a vedere fin da piccolo. Stando qui ho visto una parte del mondo che in Europa crediamo di conoscere, l'Oriente. Tuttavia ho scoperto che per la maggior parte si tratta solo di normalissimi stereotipi che poi si rivelano tali quando inizi a vivere inserito nella società proprio come se fossi uno di loro. Così, Gioele, hai ben riassunto la tua nuova vita cinese. Alla fine è tutta una questione di prospettiva con cui guardiamo il mondo, così come insegnava l'indimenticabile professor Keating dell'Attimo Fuggente? Penso di sì, anche se spesso hanno insieme di notizie sentito dire da altri enti tipo TV o giornali. Quando ho fatto le selezioni di intercultura a fine 2015 sentivo il mio paesino non aveva più nulla che potesse fermarmi e farmi pensare di restarci, ricordi? Perché hai scelto proprio la Cina, un paese con marcate differenze culturali? Ho scelto la Cina perché sono sempre stato interessato all'Asia in generale, però in particolare a questo paese così diverso e vario. Qual è stata la tua reazione a inizio 2016 quando hai ricevuto la comunicazione dell'accettazione del tuo anno di scambio di studi in Cina? Lo vogliamo ricordare? Per entrare nel database ho sbagliato la password. Poi una volta visto il risultato, vincitore con borsa di studio intesa San Paolo per studenti meritevoli, sono uscito di casa, sono andato a comunicarlo a tutti, i negozi, con tutta gioia. Eri molto contento. Arrivi a Pechino in un periodo dell'anno non semplice climaticamente, perché parliamo di agosto. Allora, qual è stato il tuo primo impatto con la Cina appena messo piede a terra? Ho uscito dall'aeroporto, mi è mancato il fiato per via dell'inquinamento. Poi arrivati in hotel, a cena, ci hanno dato dell'acqua bollente, io ho richiesto dell'acqua fredda ma non c'era, quindi a 40 gradi dell'acqua bollente è stato davvero scioccante. Parliamo ovviamente di inevitabili shock culturali. Che situazione hai trovato ad accoglierti a Zhejiang, destinazione finale del tuo viaggio? Dopo un viaggio in treno abbastanza traumatico sono arrivato e tutte le mie aspettative di trovarsi una famiglia sono state un po' svanite, perché ho trovato solo mio fratello, visto che i miei genitori erano al lavoro e li avrei visti dopo pochi giorni. Sono arrivato in un centro per gli esami per stranieri e sono stato sottoposto a un esame del sangue. Di fronte a me avevo le provette degli altri pazienti aperte, sono svenuto. Non è stato facile, Gioele, però ci descrivi proprio in estrema sintesi la città dove ti trovi, Zhejiang. Ci sono 5 milioni di abitanti, ci sono tantissime scuole, decine di ospedali, Una volta siamo andati in un posto, abbiamo messo 2 ore di pullman in autostrada, ho chiesto dove eravamo ancora a Zhejiang, e per i cinesi è considerata una città piccola. Meno male. Poi c'è la scuola, che è anche il focus principale del tuo soggiorno. Quale scuola cinese hai trovato ad accoglierti? Allora, c'è un capoclasse che è un studente abbastanza meritevole, che deve controllare la disciplina dei suoi compagni, se sono puliti o meno, e in caso di scorrettezze deve comunicare alla professore principale, che sottoporrà gli studenti a delle punizioni corporali. Dopodiché, se si risponde a una domanda in modo sbagliato durante la lezione, bisogna rimanere in piedi per il resto della lezione, e anche se si arriva in ritardo si sta in fondo alla classe in piedi. E se viene visti usando il telefono dormendo, il telefono verrà ritirato e ridato solo dopo la maturità. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente, in alcuni casi anche per studiare oltre confine. In questa puntata vi parliamo della vicenda di Gioele Leone, 16enne, che ha deciso di trascorrere un anno di studi in Cina. Un'avventura tutta da ascoltare, quella di Gioele, tra shock culturali e spirito di adattamento, fino alla conclusione davvero a sorpresa per le riflessioni che Gioele trae da questa esperienza. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Sul fronte delle materie e della metodologia di studio, quali differenze ti hanno colpito maggiormente tra Cina e Italia? Innanzitutto, ragazzi più piccoli di noi fanno delle cose che io non ho ancora studiato in Italia. Ci sono davvero tantissimi compiti, si studia fino alla sera alle 9:30. E tuttavia penso che la qualità non sia tantissimo alta, perché sono visti solo come delle persone che inglobano delle informazioni, ma in classe non si parla, non ci sono dibattiti, non ci sono interrogazioni, quindi non si sviluppa una propria idea, si ascolta solamente il professore e basta. L'importante qui, parliamo più in generale, è sapersi adattare. Tu in 3 mesi, dopo 3 mesi difficili, però ce l'hai fatta, come? Secondo me bisogna avere quella che cosiddetta apertura mentale, che secondo me è un sistema mentale basato sul trovarsi di fronte a una situazione e non farsi troppe domande. Ad esempio, ti propongono un cibo non appartenente alla tua cultura, non ti devi fare troppe domande, non bisogna fare i capricci e bloccare tutti gli altri. Poi dopo, quando avanza la lingua, puoi anche chiedere il perché di certe cose. Ad esempio, con l'acqua, non trovando l'acqua fredda, la faccio scaldare la sera, poi la metto in una borraccia, la mattina dopo è fresca e posso avere l'acqua fresca. Stupiamo gli ascoltatori, Gioele, perché tu scrivi: in Cina la cultura è ancora un concetto importantissimo, e tu arrivi da un paese ricco di storia e cultura, entrambe però ampiamente bistrattate e svalutate nell'Italia di oggi. Come la valorizzano i cinesi, la loro cultura? Ci sono tantissimi studiosi di calligrafia cinese antica, anche giovani, quindi si sta tramandando alle altre generazioni. Poi si beve il tè col processo tradizionale, le donne alle feste si prendono ore per prepararsi nella maniera antica, tutti i bambini fanno suonare almeno uno strumento, e poi una cosa bella è che le anziane e le donne vanno in piazza a ballare le canzoni dell'opera di Pechino e si può unire. È una cosa abbastanza particolare che qui gli artisti ricevono tantissimi soldi e sono veramente considerati delle persone importanti, quindi la cultura è ancora molto forte. Abbiamo qualcosa da imparare. Tu sottolinei anche l'importanza del merito nella scuola cinese, lo hai fatto capire prima, e concludi: sì, i cinesi mi hanno conquistato. È vero, ignorano magari tante cose del mondo esterno anche a causa di una forte censura. Cosa ti ha affascinato del loro mondo e modo di vivere? Innanzitutto la loro semplicità, seppur tengano molto al loro aspetto estetico, sono persone estremamente semplici, poi persone che si impegnano tantissimo, davvero diligenti, nonostante tutti i loro problemi, che sono molto stressati a volte dalla scuola, dal lavoro, sono persone davvero felici, che ti danno tutte, quindi secondo me sono persone davvero generosissime. Gioele, guardiamo anche al tuo di futuro, dove ti vedi? In Italia o all'estero a lavorare? Io ho sempre visto qualcosa di internazionale, prima magari un avvocato, però parlando in inglese, adesso mi piacerebbe fare l'interprete, e comunque ho visto che sapendo una lingua si aprono davvero tantissime porte. E la nostra domanda a diritto, Gioele: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me bisognerebbe, i professori dovrebbero insegnare un po' più a essere diligenti a scuola, quindi nella vita. Ci raggiunge ora in linea Roberto Rufino, segretario generale della Fondazione Intercultura. Buon pomeriggio. Buongiorno. Partiamo con una considerazione sullo scambio studentesco in Cina. Abbiamo visto che non è un'esperienza semplice, andare all'estero da giovanissimi richiede dovunque un forte spirito di adattamento, in Cina probabilmente più che altrove. A chi allora lei consiglia di scegliere l'Estremo Oriente? A ragazzi che vanno bene a scuola, che sono motivati a studiare e che non sono schizzinosi, che sono pronti a sperimentare cose nuove senza farsi troppe domande, perché come diceva giustamente Gioele, i primi 3 mesi, ma non soltanto i primi 3 mesi, possono essere molto duri. Andiamo sui numeri. Quanti studenti inviate ogni anno in Cina e dove, in quali città? Ma mandiamo in tutta la Cina, in questo momento le abbiamo in 11 diverse province cinesi e in 25 diverse città, ne mandiamo più di 100 all'anno ormai. Non pochi. No. E i feedback che avete ricevuto finora ce l'hanno fatta tutti ad ambientarsi come Gioele? Sì, ce l'hanno fatta tutti, chi meglio chi peggio, ma ce l'hanno fatta tutti. Anzi, direi che chi va in questi paesi considerati più difficili non li prende sotto gamba. Spesso hanno più difficoltà da ragazzi ad ambientarsi negli Stati Uniti, paese considerato facile, perciò chi ci va forse si impegna un po' meno di chi va in Cina, ma chi prende una decisione di andare in questi paesi poi si impegna per avere successo. Da un punto di vista prettamente scolastico, quali sono i vantaggi e anche i possibili rischi di un anno di studio in Cina? Anche perché, insomma, l'abbiamo visto, parliamo di un sistema inevitabilmente molto diverso. Ma dipende da che tipo di scuola abbiamo in testa in Italia. Se abbiamo in testa la vecchia scuola delle conoscenze, dove si mandano a memoria tante cose, chiaramente un sistema molto diverso porta delle lacune cosiddette nel sistema italiano. Se invece abbiamo in mente la scuola della competenza, quella che dovrebbe esistere ormai da parecchi anni in Italia, pensi lei quante competenze si acquisiscono andando in un paese molto diverso dal nostro. Grazie Roberto Ruffino, segretario generale di Fondazione Intercultura. E domanda di rito per Gioele Leone: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento sta pensando di andare a studiare all'estero? Allora, anche se si ha un minimo pensiero, un minimo dubbio di partire, io dico di seguirlo, di provarci, perché anche se poi una volta arrivati nel paese avete un po' di difficoltà, sia che avete tanta voglia, che non avete tanta voglia di partire, ce l'avrete comunque, ma poi alla fine di questo il paese vi mancherà tantissimo e ne terrete tanti tanti benefici, quindi io consiglio a tutti di partire un po'. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi le ultime dall'Agenzia Europea per l'Impiego EURES. Ogni due settimane vi forniamo infatti dritte utili per andare a lavorare in Europa. Ilaria Sicilia di EURES Italia. Da un paio di mesi faccio parte del gruppo di lavoro Italia-Germania. Gruppo di lavoro che viene eseguito dai due stati, cioè dall'Italia e dalla Germania, per favorire la mobilità. Ci sono degli accordi bilaterali fra i due stati che a cascata riescono ad aiutare poi le persone che cercano lavoro in Italia o cercano lavoro in Germania. Requisiti essenziali: la conoscenza della lingua del paese, quindi del tedesco, ad un buon livello, offerte di lavoro che sono in tantissimi settori, in questo momento sia nel settore medico, settore sanitario, sia nel settore turistico alberghiero, quindi abbiamo offerte di reception, di cuochi, di medici, di infermieri, di farmacisti. Le offerte sono quindi le più disparate, ma ribadisco, la conoscenza della lingua tedesca è fondamentale, in subordine anche la conoscenza della lingua inglese. Questo progetto, diciamo che tende a supportare le persone che hanno la possibilità di stare in Germania per un minimo di 6-12 mesi. Non abbiamo offerte di lavoro per un tempo più breve. Tutte le persone interessate possono o andare direttamente sul sito di EURES nella parte trovare lavoro, inserire come parola chiave Germania, oppure contattare i consulenti EURES del proprio territorio. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Tornano nell'ultimo sabato di febbraio le lettere che inviate settimanalmente alla nostra casella email dedicata a giovanitalenti@radio24.it. Oggi spazio alla missiva della nostra ascoltatrice Monica, che ci racconta una storia di immigrazione per fare teatro. Storia che ci fa riflettere sulle reali opportunità per giovani attori e artisti nella penisola. Il finale è abbastanza amaro. Voi continuate a scriverci le vostre storie e le vostre denunce. Mi chiamo Monica, ho 39 anni, vi scrivo da Firenze. Vivo qui da ottobre scorso, insieme a mio marito e al mio figlioletto. Sono tornata in Italia dopo 15 anni di Russia, tra San Pietroburgo e Mosca. Sono un'attrice in maternità. Lavoro al teatro laboratorio di Piotr Fomenko, uno degli stabili più grandi e importanti di Mosca, fondato appunto da Piotr Fomenko nel 1993 insieme ai suoi allievi attori. È un teatro molto particolare, dove non solo si lavora ma ci si sente a casa. Al momento ci sono più di 40 spettacoli in repertorio e l'atmosfera è intrisa al massimo di creatività. Sono stata in compagnia per 9 anni, lavorando quasi ininterrottamente con Fomenko i primi 5. Ho proposto a mio marito di tornare in Italia la scorsa primavera, appena ho scoperto di essere incinta. È stata una decisione presa all'improvviso, con il cuore, tutta ad un fiato, e sono felice. Essere in Italia significa tornare alle radici, un po' riprendere in mano la mia storia e donare a mio figlio la gioia di essere di questo paese meraviglioso. Mio marito si è trasferito in Russia per stare con me, senza sapere una parola di russo, nel 2012. Non so se tornerò in Russia. Ho preso intanto un anno di tempo per essere mamma. In Russia ti danno una sorta di aspettativa di 3 anni per stare con il bambino. E ancora non so cosa decideremo. Certamente il desiderio di condividere il mio percorso qui e con altre persone è fortissimo. In Italia non sono riuscita nel 2002 a entrare in nessuna scuola di teatro. Che dire, sono entrata all'Accademia di San Pietroburgo, ho fatto le valigie e sono partita, innamorata della Russia già dall'università che ho frequentato a Urbino, lavorando parallelamente con un gruppo teatrale. Non ho rimorsi né rimpianti. Le amarezze di quando non mi hanno presa nelle scuole di recitazione, ahimè, spesso in modo non gentile e neanche troppo onesto, ha lasciato spazio alla voglia di fare. E io sono grata a chi non mi ha voluta, perché mi ha dato la spinta a continuare. Mi ha fatto bene, insomma. Un motivo per restare. O tornare. Non si ferma il boom delle startup in Italia, sono quasi 7.000, oltre il doppio rispetto a 2 anni fa, ma a oltre 4 anni dallo Startup Act risulta ancora poco il capitale di rischio investito, limitandosi normalmente al binomio family and friends, famiglia e amici, nonostante i bonus fiscali forti. Luci e ombre sul pianeta startup arrivano dalla relazione annuale del Ministero dello Sviluppo Economico. Al 31 dicembre dell'anno scorso erano 6.745 le startup innovative iscritte a registro, con una crescita senza sosta, più 31% in un anno, più 112 in 2 anni. Guardando alla distribuzione sul territorio, emerge il primato del nord-ovest, con la Lombardia in testa tra le regioni e Milano prima tra le province. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia e anche giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh, Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email insieme ai vostri racconti per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.